Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza, giovedì 28 dicembre del 2017. Su queste frequenze ci ascoltate in diretta e anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. sull'home page trovate Ascolta la diretta. Questa è Visionari, il cinema su queste frequenze ogni giovedì dalle 14 alle 15, ma spesso anche con questa mezz'ora d'anticipo. Quest'oggi e anche giovedì prossimo 4 gennaio due puntate speciali, perché come ogni anno facciamo un bilancio dell'anno cinematografico e abbiamo come ospiti una serie di amici e colleghi che ci diranno i loro 5 film preferiti dell'anno, tra quelli usciti in sala, poi se ci sono anche menzioni o altro, e insomma questo è. E il nostro primo ospite di quest'oggi è Nicola Falcinella. Ciao! Bentrovati! Oh. Allora, come ogni anno è un piacere averti con noi, come ogni anno ti chiedo intanto un bilancio di quest'annata cinematografica e poi le tue preferenze. Ma il bilancio non è esaltantissimo, è stata una buona annata, però alla fine ci sono diversi buoni titoli, infatti per i 10-5 ho fatto un po' fatica, però non c'è forse stato il film che mi ha fatto impazzire, per quanto alcuni di questi di cui poi parlerò li abbia amati. E anche dal punto di vista dei festival non si può dire che Berlino 2017, Cannes 2017 o Venezia 2017 sono state delle grandissime edizioni, tanto per limitarmi ai tre considerati maggiori in Europa. E anche Locarno è stata una buona annata, ma non questa grande annata. E però insomma ho 5 film dei quali sono contento e non lasciati fuori altri che ci sarebbero stati un po'. Devo ammettere che li ho scelti a sorte, perché ero un po' indeciso. Quindi non è stato facile, insomma. Non è stato facile. Ok. E allora andiamo ad illustrarli. Sì, forse il mio preferito dell'anno tra i film usciti in sala è L'altro lato della speranza di Aki Kaurismäki, che aveva vinto l'orso per la miglior regia a Berlino, e è un film che va un po' nel solco del film precedente di Kaurismäki, che era A miracolo a Le Havre. È un film che racconta l'attualità dell'emigrazione, dei migranti, però li fa diventare ovviamente delle storie di persone, delle storie di incontro, e in questo caso c'è un uomo che lascia il lavoro, la moglie, e si reinventa acquistando un ristorante, un po' come cercando di reinventarsi in un ristorante anche in Nuvole in viaggio, un film di Kaurismäki di una ventina d'anni fa, e per caso si imbatte in un giovane siriano che è arrivato rocambolescamente fino a Helsinki e cerca la sorella, e i due si uniranno per cercare la ragazza rimasta indietro. Ed è un film che da una parte rifiuta il mondo contemporaneo, da tutte le parti rifiuta il mondo contemporaneo, nel senso che non ci sono i telefoni cellulari, si usano le macchine per scrivere, è un mondo un po' retro anche appunto dell'aspetto degli oggetti utilizzati, e dall'altro rifiuta il mondo contemporaneo dove ognuno si fa gli affari suoi, e qui invece c'è una forte componente di umanità, di attenzione verso gli altri, di prendersi cura verso gli altri, e ci sono naturalmente, come in Kaurismäki, delle situazioni che sono divertentissime. Sì, sicuramente. E questo forse è il mio preferito. Sì. E poi ci sono 3 film americani, anche se ecco, il cinema, per quanto riguarda il cinema americano, devo dire che è stata una buona annata, per quanto magari si pensa che dagli Stati Uniti arrivino più che altro delle serie, che insomma sia un po' in calo il cinema americano. Invece devo dire che io ho scelto il film di Martin Scorsese, quello di James Gray e anche La Grotta delle Meraviglie di Woody Allen, che è entrato, che è uscito in sala, scusate, pochi giorni fa. Però non so, avrei potuto mettere Patterson di Jim Jarmusch o Songs to Song di Terrence Malick tra i miei preferiti. E, guarda, ti dico, Nicola, sì, che per esempio 4 dei miei 5 titoli sono statunitensi, quindi io 3, quindi sì, sì, quindi funziona insomma quest'anno cinematografico, sì, a stelle e a strisce, sia secondo me per i grandi vecchi come Scorsese, Malick, Allen, e anche per dei giovani ormai classici come si può dire di James Gray, per Civiltà Perduta, che è davvero un film classico che non ha paura di confrontarsi con un linguaggio magari di tempo fa e di cimentarsi con l'etica, e ha proprio il passo del grande romanzo, una cosa che magari tanti suoi coetanei, perché James Gray questo deve essere del 69 se non ricordo male, magari evitano un po' questi confronti, prendono delle strade magari secondarie, mentre Gray lo è fin dal suo esordio con Little Odessa, va diritto, non ha paura dei confronti. E Civiltà Perduta, che in originale si chiamava Velocity of Dead, che forse rappresenta di più lo spirito, perché va a cercare questa città perduta dell'Amazzonia, è veramente un film che riesce a incarnare, a trasmettere lo spirito di avventura, oltre poi a innescare tanti altri temi, l'ambizione, il confronto con la natura, l'amore per la famiglia, il rapporto con il figlio e anche il rispetto per le popolazioni con cui viene in contatto. È anche un film sull'ossessione per l'esplorazione, insomma è un film molto, molto ricco di tematiche. E poi Silence di Martin Scorsese, che racconta l'avventura di due gesuiti portoghesi nel Giappone del 600, da cui i cristiani erano stati cacciati, e si avventurano di nascosto cercando di riprendere i contatti con i cristiani che erano rimasti in Giappone. Ed è un film anche qui che ritorna alle tematiche dell'ultima tentazione di Cristo di Scorsese, anche qui 30 anni dopo, e lavora sulla scelta, sui tormenti. Silence significa, si riferisce al silenzio di Dio, ma anche al silenzio dell'uomo, e è un film sui compromessi che si possono fare per sopravvivere. È un film di dilemmi che resta fino alla fine aperto, che non offre vie di uscita facili, che si presta a varie interpretazioni, e ha una messa in scena molto, molto ricca, da una parte molto pittorica, dall'altra ricorda anche Kurosawa, di cui bisogna ricordare che Martin Scorsese fece l'attore per Kurosawa in un episodio di Sogni. E poi ti aggiungo che anche per me Silence è tra i 5. Bene, okay. Sono molto contento, perché è un film che è stato forse un po' non snobbato, non è stato abbastanza considerato per quello che è. Da Scorsese ci si aspetta sempre tantissimo, è sicuramente uno degli autori cardine di questi decenni. Silence secondo me non è, è uno dei film maggiori, per quanto poi i suoi film maggiori siano tanti, ma non è, non è sicuramente tra, tra i minori, quelli che si possono considerare tra minori. E poi un altro autore di cui si tende un po' a mettere proprio i film tra i minori è Woody Allen, che è stato dato per morto, cioè morto artisticamente intendo, molte volte, che si è dato un po', molti lo considerano un po' che si ripete, che si è un po' avvitato su certe cose, ma secondo me La Notte delle Meraviglie è un colpo d'ala notevole. E è un film che mette tanto dentro, anche qui torna sul destino, la colpa, si interroga tante cose sul cinema, il raccontare. C'è un personaggio femminile molto bello, che è quello interpretato dalla protagonista Kate Winslet, e La Notte delle Meraviglie è il nome della ruota del Luna Park di Coney Island, e che gira e cambia le luci, cambia della casa, cambia anche un giro del destino. E mi piace qui ricordare il figlio, il ragazzino, che è un cinefilo ma è anche un piromane, e forse i cinefili devono essere un po' piromani, e Woody Allen ce lo ricorda. E il quinto film è un film rumeno, Sierra Nevada di Cristi Puiu. È un film che è stato presentato in concorso a Cannes nel 2016, che però è uscito da noi soltanto nel 2017. È un film che secondo me vale la pena di recuperare. Puiu è con Christian Mundu il capofila del nuovo cinema rumeno, è quello meno considerato dalle giurie, perché Mundu ha vinto la Palma d'Oro a Cannes e vince sempre qualche premio con i suoi film. Puiu invece è quello che non vince mai, secondo me è il più bravo tra i due, e Sierra Nevada è una conferma. È un film corale di circa 3 ore, quasi in tempo reale, e racconta la cerimonia funebre di un padre con la presenza di tutta la famiglia, e uno di quei film dove si ride, si piange, dove si ride amaro, e dove anche qui i temi sono tantissimi, e c'è una maestria registica davvero raffinata. C'è una è quasi tutto dentro un appartamento, e Puiu apre e chiude le porte con una sapienza che non so, mi ricorda i Cukor, mi ricorda quella il cinema degli anni 30-40. Sì. Quindi questi sono i miei 5. Senti Nicola, in chiusura, dove, per chi ci ascolta, dove ti si può leggere o sentire? Fondamentalmente se recensisco per l'Eco di Bergamo, per la provincia di Como, e poi per l'Osservatorio Balcani e per Cinequalons. Quindi Puiu è una delle mie dei amori da sempre, perché mi scrivo per l'Osservatorio Balcani dall'inizio. Bene, allora Nicola, un abbraccio, auguri di buon anno e alla prossima. Buon anno, scusate, anche a voi, alla prossima, grazie. Ciao Nicola, ciao. Bene, siamo in collegamento con Emanuela Martini, nostra seconda ospite e presente tutti gli anni per un bilancio cinematografico della stagione e poi per i suoi 5 titoli preferiti tra quelli usciti in sala. Emanuela, ben ritrovata. Buongiorno a tutti, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, ti chiedo subito un'impressione su quest'anno cinematografico, Emanuela. Ma nonostante gli incassi qui in Italia siano andati malissimo, non è stata affatto una brutta annata. io ho fatto liste più lunghe della vostra, cioè diciamo liste di 10, sì, e in realtà come minimo mi veniva da metterne dentro una ventina, per cui complessivamente secondo me è una buona annata. Bene, bene, bene. Senti, allora a questo punto le tue preferenze? Io dico, non le dico proprio in ordine di preferenza, cioè il primo sì in assoluto, Dunkirk. Ok. Dunkirk, io non sono una nolaniana, cioè non amo, non sono dei fanatici, quelli che amano Christopher Nolan alla follia, perché l'ho trovato sempre, anche se fa generi che a me piacciono, come la fantascienza, però l'ho trovato sempre un po' troppo schematico, un po' troppo puntiglioso, un po' troppo perfettino forse per i miei gusti, perciò freddo in realtà, e invece secondo me con Dunkirk si è scaldato completamente. Okay. Perché c'ha la stessa perfezione, il tempo, lo spazio, cioè i giochi che gli piace fare a Nolan, però è anche un film di grande cuore, sì, un film di grande passione, un film, è il film di un britannico effettivamente per la prima volta, l'altro film che si capiva che era British e non americano probabilmente era The Prestige, che non è uno dei suoi film più belli però, e che c'ha ancora nel cuore questa orrenda sconfitta che si è poi trasformata in una vittoria morale eccezionale. Sì. Per cui il primo in assoluto, queste tre volte mi sono commossa tutte e tre le volte, quindi primo in assoluto Dunker, poi molto vicino un altro film su cui ci si commuove ma si ride anche, L'altro volto della speranza di Aki Kaurismäki. Ok. Che è l'unico ormai che ci è rimasto in giro che ti riesce a far piangere e ridere contemporaneamente, cioè a parte è un uomo con un senso morale eccezionale e riesce a costruire queste storie dove in realtà non ci sono mai cattivi, ci sono solo persone, e con queste botte di umorismo laconicissimo come a lui. Ma c'è tutto il pezzo inerente al ristorante che è geniale. è una perfezione assoluta nella sua totale semplicità, una perfezione assoluta dal punto di vista stilistico. Sì, sì, sì, sì. Quindi l'altro volto della speranza. Come te lo ha votato anche Nicola Falcinella che abbiamo appena ascoltato. Ok. Poi Jackie. So che dei film di Larraín è stato uno di quelli più criticati, però secondo me Jackie è perfetta, cioè potrebbe essere un sequel di Neruda, è perfettamente nello spirito e nell'approccio teorico e sentimentale di Larraín, è un film mortuario, come sono tutti i suoi film di solito, tranne forse no I giorni dell'arcobaleno, è un film mortuario. C'ha questo senso proprio di lavoro sulla memoria e su un futuro che non c'è, cioè lui lavora sul passato in questa maniera assolutamente straziante, e l'ho trovato come costruzione, non si è assolutamente snaturato pur facendo il film americano con la star eccetera eccetera, e l'ho trovato molto bello. Sì, sì, sì, sì. Poi ci metterei, sono già a 4, vero? No, 6-3. Kaurismäki. Sono a 3. Sì. Allora ci metterei un piccolo film che non so quante persone hanno visto, che si chiama Free Fire, di uno di, secondo me, dei più interessanti giovani autori inglesi contemporanei, che è Ben Whitley, che è l'autore che ha fatto Down Terrace, Kill List e Peggiore degli altri, forse il più noto, High Rise, tratto da romanzo di Ballard. E Free Fire, che è un, in realtà pare tarantiniano, ma in realtà è il tipico stile di Whitley, è uno scontro armato all'interno di un enorme hangar sotterraneo deposito tra mercanti di armi e IRA, Irish Republican Army, una trentina, 20-25 anni fa. Film costruito anche questo sul nulla, praticamente si uccidono, si massacrano dall'inizio, da 10 minuti dopo l'inizio, cioè quando entrano le due squadre, si incontrano per uno scambio d'armi ovviamente nell'hangar, e si massacrano incessantemente fino alla fine, ma è un film assolutamente trascinante, strepitoso. E siamo a quattro. Adesso, e siamo a quattro, e adesso sull'ultimo c'ho un po' di problemi, perché io in realtà volevo dire un film che è stato già visto, ma esce fra una settimana, lo posso dire lo stesso. Una settimana, quindi proprio già. Il 7 o l'8 di gennaio esce. È già stato visto a un festival, però, in Italia, cioè a Venezia. Ma io lo dico: i tre manifesti a Ebbing, Missouri, di Martin McDonagh. Ok. Con la presa di McDormand, che secondo me è uno dei più bei film che io ho visto negli ultimi anni. Una sceneggiatura eccezionale, sceneggiature così ben scritte non se ne trovano praticamente mai. Sì. Che usa tutti i cliché possibili, tutti i luoghi comuni possibili, e non ci casca mai. Te li ribalta costantemente uno dietro l'altro, ti porta dove non credi che ti porterebbe mai. Ed è sorretto da un cast strepitoso, oltre alla Frances McDormand, c'è anche Sam Rockwell, anche qui in una parte inaspettata. Però se proprio ne volevate uno di quest'anno, vai, dirò La La Land di Damien Chazelle, okay, che comunque ha riportato in auge il musical, e è un bel musical, al quale tra l'altro è anche funzionale che loro due non siano due perfetti, perché forse, cioè, due cantanti straordinari, soprattutto due ballerini perfetti come erano Astaire e Rogers, per dire, o Gene Kelly e Sid Charis, perché poi forse il musical, anche se ballano bene, forse il musical oggi proprio perfettissimo non si può avere. Comunque sono questi. Senti, Manuela, ti chiedo anche un'idea, un'impressione sul cinema italiano. Sul cinema italiano, vabbè, c'è un film molto bello, io mi sono visto molto bello quest'anno italiano, che mi era sfuggito, che non ho messo nei cinque, che è La tenerezza di Gianni Amelio, e qualche altra cosa buona. Sì. Più di uno in realtà. Ecco, il cinema italiano deve riuscire a uscire da quella logica folle della commedia per la commedia, solo la commedia. Okay. Non so, ci sono stati due begli esordi, o semi esordi, che erano Cuori puri e il film di Andrea De Sica, non lo, sì, dovrei dire perché l'ho fatto io in concorso a Torino 2 anni fa, però è uscito quest'anno, cioè. Ecco, sono abbastanza esemplari, cioè andare in una direzione diversa. La commedia non ha pagato, tra l'altro, quest'anno, cioè sono andate tutte abbastanza rotoli, mi risulta. Mm-hmm. Per cui probabilmente deve cominciare a investire di più sulle cose che sappiamo fare, cioè adesso appunto la scuola o non scuola, o quello che è stato del documentarismo, che è stato e che è una delle cose fondamentali per i giovani, per esprimersi, soprattutto in Italia, ma non solo, ha cominciato a produrre dei frutti molto alti anche sul piano narrativo, o comunque su un tipo di cinema che non è né narrativo né documentario. Sì. Probabilmente bisogna andare più dietro a queste cose che non necessariamente ed esclusivamente alla commedia. Per cui secondo me il cinema italiano non è che stia male in assoluto, ci sono ancora grandi autori e c'è tutto questo gruppo di più giovani che lavorano in direzioni strane, che però sono anche quelli che fanno fatica a trovare lo sbocco, a trovare la distribuzione. Sì. E mentre appunto le commedie hanno cominciato, un certo tipo di commedia, non parliamo dei cinema panettoni, hanno cominciato a non pagare più. Sì. E forse è ora di cambiare, ecco. Mm-hmm. In chiusura, Emanuela, per chi ci ascolta, dove ti si può seguire, leggere o ascoltare? Come? Per chi ci ascolta, ti chiedevo, sì, dove ti si può seguire o leggere. TV. Ok, benissimo. Il TV, e poi faccio Wikiradio, ma di solito è su roba vecchia, quindi è sul passato. E scrivo per Film TV, faccio recensioni per Film TV. Benissimo. Allora, okay, un abbraccio, buon anno e alla buon prossima. Buon anno a tutti. Ciao. Buon anno, ciao ciao. E questa era Emanuela Martini. Bene, Fabio Ferzetti che era all'ascolto, ben ritrovato come ogni anno, Fabio. Eccoci qua, buongiorno, aspetta, fatemi abbassare la radio, se no siamo in stereofonia. Allora Fabio, ti chiedo con molto piacere Emanuela, con cui sì, concordo su un sacco di cose, su altre per niente, ma è bello che sia così, però certo, mi è piaciuto molto che abbia difeso La La Land, che è uno dei film più per me misteriosamente attaccati quest'anno, un film bellissimo che fra i miei cinque, lo anticipo, e fra l'altro per le ragioni appunto condivido anche le ragioni, appunto molti hanno rimproverato l'imperfezione, beh, ma poi qui sta il bello, è un film sulla nostalgia, è un film sul sogno impossibile di far rivivere quel periodo, quella perfezione, quei corpi che non ci saranno mai più, quello racconta il film, lo racconta così bene, ho trovato un film incantevole. Sì. No, lo dico perché è passato come buona parte della critica, l'ha liquidato come un bluff, un film così. Beh, guarda, io sono rimasto veramente, insomma, non così bello, ecco. Io l'inizio mi ha veramente impressionato, di una perfezione stilistica impressionante. Ma non solo l'inizio, anche il modo in cui usa i piani temporali, insomma, no, è un film di grande maestria. Sì. Grande maestria, e così ce ne siamo già bruciati uno. Allora, tu non li vuoi anche in ordine di preferenza? No. Già arrivare a 10 è un problema, arrivare a 5 significa fare il gioco della torre con amici e parenti cari, ma buttarli giù perché se non arrivi a 5. Ed è vero che non è stata affatto una cattiva annata, ma io penso che non siano mai cattive annate, ci sono sempre tantissime cose da scoprire, tantissime novità e curiosità, anche perché il cinema è sempre meno uno, sono tanti, è talmente frammentato ormai in correnti, filoni, cinematografie lontane, incompatibili. Mi divertiva adesso sentire Emanuela che in fondo ha messo insieme film, una volta ci avrebbero detto incommensurabili, ma va bene, è anche giusto, io sono assolutamente a favore dell'eclettismo, no? Ma è chiaro che sì, Kaurismäki, che resiste in Europa facendo ostinatamente i suoi film così simili gli uni agli altri, così diversi da tutto il resto, e un signore come Christopher Nolan, che ha un palcoscenico mondiale, che fa i Colossal, fa i film fumetto in America e poi fa un grande bellissimo film come Dunkirk, sono proprio, no, entità incomparabili, parliamo di cose talmente diverse proprio per natura, per impianto produttivo, per possibilità di mercato, per canali attraverso cui circolano, però appunto sì, poi è giusto, quindi in ognuno dei diversi segmenti in cui ormai si divide il cinema poi si trovano cose vive, cose nuove, cose appunto autori che sperimentano, insomma, che si mettono alla prova e ci mettono alla prova con i loro film, ecco. Sì. Vai, continuiamo dopo La La Land, che hai messo? Beh, allora, è difficile, beh, un altro film appunto che io non avevo pensato, perché per me è un film dell'anno scorso, però è vero che è uscito quest'anno, appunto, è il film di Kaurismäki, non si può non citare L'alto volto della speranza, meraviglioso, okay, per tutte le ragioni che ha appena detto Emanuela, esattamente, non sarò a ripetere, ma insomma è un film in cui adori appunto tutti i personaggi, cioè è il mondo come ci piacerebbe che fosse, insomma, come probabilmente è se sai andarlo a cercare, se trovi appunto quei micromondi, quei personaggi, quegli ambienti e sai coltivarli e amarli con pazienza e poi li porti appunto a vivere su uno schermo come fa Kaurismäki con ognuno dei suoi film, quindi è sempre veramente una gioia ritrovarlo, e al tempo stesso è incredibile la capacità che ha appunto questo autore così lontano geograficamente, chiuso in uno stile iperdefinito che è quello da anni che non si muove, però che poi invece si riesce a connettere a qualcosa di gigantesco che sta succedendo in questi anni, che è fatto delle migrazioni, all'enorme, tutte le ondate di diverse di culture, lingue, no, che si riversano in Occidente, in Europa in particolare. Beh, insomma, questa cosa riesce poi a trovare, come dire, ad abitare dentro il suo cinema con una naturalezza e una felicità in tutti i sensi della parola, beh, veramente che, insomma, miracoloso. Io mi ricordo all'epoca di avere parlato di Chaplin, cioè secondo me lui è l'unico vero erede di quel cinema universale lì, con la differenza che una volta Chaplin faceva questi film per tutto il mondo, no? Cioè l'ecumenismo di Chaplin era un fatto anche di mercato, aveva un mercato mondiale, era un genio adorato nel mondo intero, era un attore, autore, e qui invece tutto il contrario, questo è un regista che non si metterà mai davanti a una macchina da presa, che lavora però benissimo sui corpi dei suoi attori, non attori, così diversi dal solito, e che però poi riesce a toccare corde e sentimenti veramente universali, solo che invece è destinato invece a un pubblico di cinefili che attraversa l'intero pianeta, ma che non è più la vasta, l'immensa platea planetaria appunto che aveva una volta Chaplin. Quindi c'è un curioso paradosso storico che andrebbe interrogato, ma secondo me la genealogia è quella, lui viene proprio da lì in qualche modo. Sì. E siamo a due. Andiamo avanti, siamo a due. Beh, sempre per la serie Testa Coda e film diversissimi, è difficile non citare L di Verhoeven, che invece è acido, spiazzante, crudele, tutto di testa, però ci sorprende dall'inizio alla fine, ci costringe appunto a fare i conti con un autore che forse avevamo sottovalutato, a proposito anche qui di autori giramondo, che insomma è un olandese tornato a fare un film in Francia dopo tanti anni di cinema buono e cattivo, perché non ho certo adorato tutti i film di Verhoeven, ma ne ha fatti di notevolissimi, e comunque è sempre capace, come dire, di piantare il picchetto sulla cima più alta, non so, comunque di arrampicarsi. Ecco, e lui è uno che non ha mai rinunciato a cercare il contatto con il pubblico più vasto possibile, lavorando sui generi dall'erotismo di Basic Instinct alla fantascienza, dal film di guerra che era tornato a fare in Olanda qualche anno fa, appunto adesso questo film che in realtà non appartiene a nessun genere, ma ne attraversa parecchi, però sempre tenendo d'occhio qualcosa che ha un impatto fortissimo al di là appunto dei confini di genere o di cultura, intesa anche come lingua, e riesce a parlare appunto veramente la lingua del cinema, riesce a, come dire, a un obiettivo che è sempre molto molto molto alto, insomma, qui attraverso, se vogliamo, mobilitando una grandissima attrice europea come Isabelle Huppert e così reinventando le regole di un certo cinema d'autore europeo, ma con grandissima maestria e così con capacità di stupirci dall'inizio alla fine. Quindi è un film notevolissimo. Più notevole in questo di un film che è fuori dalla lista, ma che cito perché è fuori per poco, mi sarebbe piaciuto poter mettere, che è The Square di Ruben Ostlund, che se vogliamo è in quella non è lontanissimo per come appunto cerca di rovesciare una serie di stereotipi dentro cui siamo chiusi oggi, passando attraverso la figura di questo direttore di Museo d'Arte Moderna e quindi tutte le convenzioni e il non detto e il mercato e le regole, poi anche invece della vita civile in cui restiamo impigliati, no? Questo bon ton che condiziona sia appunto la ricezione dell'arte sia molto più semplicemente la vita quotidiana. In questo senso sono dei film che si danno un po' la mano. Ma è un film che avrei inserito volentieri fra i primi cinque se Ostlund avesse veramente finito il suo film, che invece ha vinto una palma d'oro, anche meritata per carità, ma prima che lui in realtà ci rimettesse le mani e lo rimontasse come aveva promesso di fare e come non ha più fatto. E quindi è un film così vistosamente imperfetto purtroppo, ma insomma notevole, che merita comunque di essere citato. Quindi non lo mettiamo fra i cinque. Non lo mettiamo fra i cinque. Lo cito okay. Solo per trovare un punto così, per trovare un paradossale gemello a El di Verhoeven. Poi vorrei citare un film che a qualcuno magari sembrerà accademico, antico, sicuramente scritto, concepito, girato con tutta la pesantezza, se vogliamo, ma anche la forza poderosa, insomma, di certo cinema appunto russo, ed è l'Oblast di Zyaginchev, che mi sembra nessuno abbia ancora no. Citato finora con mio stupore, che insomma è un film di cui così di rara potenza, che è difficile ignorare quest'anno. E per finire, quinto, un altro film ignoratissimo in Italia, ma per me delizioso, una commedia straordinaria, che piacque a tutti a Cannes l'anno scorso, tranne che agli italiani, è un mistero, e quindi siccome sono dei tre italiani a cui è piaciuto lo voglio almeno citare, che vi presento Tony Erdmann di Mare Nate. Io non so se sia stato anche il doppiaggio italiano, che non è mai, che sempre abbiamo, non dimentichiamoci di citare questa così piaga eterna che avvelena la ricezione dei film stranieri in Italia, insomma, perché che siano piccoli o grandi, importanti o non importanti, insomma, è talmente, è uno stampo proprio che uniforma e livella tutto, per cui ci sono film, appunto, fai danni maggiori, li fai film più portatori di una singolarità più forte, dove c'è appunto un modo diverso di far vivere i personaggi, di farli parlare fra loro, di costruire le psicologie attraverso i dialoghi, beh, insomma, lì il doppiaggio si abbatte come un maglio e così formatta, normalizza tutto, e quindi io credo e spero che il fiasco italiano di questo bellissimo film sia anche dovuto, io poi non l'ho neanche visto, premetto, magari, cioè, magari è stato doppiato meravigliosamente per una volta, ma non credo. Credo sempre meno nel buon doppiaggio, che una volta c'era, oggi c'è ancora, ma insomma è rarissimo. Sento cose proprio inaudite. Senti, poi però sì, per riagganciarmi a Emanuela sul discorso sul cinema italiano, sì, ci sono almeno due film che è difficile non citare, appunto, che vengono dallo sguardo documentario, che certo è il più importante in questi anni. Beh, sono La Ciambra di Carpignano e L'Intrusa di Leonardo Di Costanzo, che anche qui mi dispiace moltissimo non poter mettere fra i primi cinque, che forse dovrebbero starci, ma che insomma merita una lista a parte, anche perché il cinema italiano appunto ha problemi tutti i suoi, a cui vorrei aggiungere un film molto sottovalutato che invece ho visto in sala ed è stata una bella sorpresa qualche settimana fa, che si era visto a Locarno, è uscito un po' così, non, senza gran fragore, ma invece è un buon film, che è Amori che non sanno stare al mondo di Francesca Comencini. Invece è un esempio appunto di rinnovamento dentro, se vogliamo, la commedia in senso molto largo. È un film sentimentale, è un film, insomma, è quella che si chiamerebbe una commedia drammatica, ma insomma è un film che gioca volentieri la carta del paradosso, dove tutto è sempre così un pochino sopra le righe volutamente, e insomma è stata una bella sorpresa, la conferma di un'autrice molto appartata, molto diseguale, molto discontinua se vogliamo, ma che ha sempre qualcosa da dire, come Francesca Comencini. Mi piace citarlo. Bene. Allora Fabio, in chiusura anche a te chiedo, per chi fosse interessato, dove ti si può leggere o sentire? Mi si può leggere ogni tanto sul Fatto, mi si può sentire ogni tanto alla radio o in televisione, in realtà l'ultima cosa ho fatta in televisione da Venezia, ma insomma sono un po', sono in fase freelance, non ho più la tribuna che ho avuto per tanti anni, quindi scrivo molto meno, ma insomma ogni tanto sul Fatto. Bene, bene. Saltuariamente. Allora, un abbraccio, buon anno e buon anno a tutti. E a presto, Fabio. A ciao. Presto. Ciao, ciao. Federico Pedroni, ben ritrovato. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, anche quest'anno con te per un bilancio dell'annata cinematografica e poi per i tuoi cinque preferiti, poi anche con qualche considerazione in aggiunta. Comincerei con le tue opinioni su quest'annata. Ma guarda, io sono un pochino meno negativo di molti che ho sentito in giro, di molti colleghi e amici che ho sentito in giro. Certo, i film davvero convincenti non saranno stati tantissimi, ma io poi quando mi sono dovuto trovare a fare questi soliti giochini di fine anno, di classifiche, di rivalutazioni, di pensieri e cose del genere, in realtà ho trovato molti film buoni. Però magari la differenza uno la può fare su quello che è uscito quest'anno, che è, come al solito con i sistemi distributivi che abbiamo, molto spesso era frutto dell'annata dell'anno scorso, mentre se devo dire la verità i festival di quest'anno, che quindi sono quelli che poi magari dal punto di vista del cinema d'autore danno un maggiore polso della situazione, abbiamo avuto un'annata molto molto molto sottotono di Cannes e una discreta Venezia, però insomma diciamo rispetto a quello l'annata è stata un pochino più debole, insomma. Però poi un po' di film molto belli sono arrivati comunque, però ripeto, ad esempio nei miei film dell'anno molti venivano dai festival dell'anno scorso e che sono usciti quest'anno in sala, quindi questa cosa lo rende, diciamo, un'annata un po' di passaggio, diciamo, se okay, vogliamo usare okay questo termine. I tuoi preferiti? Da che parto? Da 5 a salire, cioè, mi sono preparato una classifichina, mi hai detto di prepararne 5 e ne ho preparati 5. Okay. Il quinto è il film che ho amato di più del Cannes di quest'anno, che è L'inganno di Sofia Coppola, The Beguiled, che è questa nuova versione, perché trovo che sia distantissima dall'originale di Don Siegel, che era La notte brava del soldato Jonathan. Quindi ho sempre discusso e litigato con moltissimi amici che hanno, diciamo, trattato abbastanza male il film, soprattutto in confronto alla versione di Siegel, perché io ho trovato che la Coppola abbia poi dato una riscrittura, chiaramente consapevole del fatto della prima versione di Siegel tratta dallo stesso romanzo, ma ha dato una lettura assolutamente consapevole di fare qualcosa di cosa completamente diverso e molto coerente all'interno della sua filmografia. Io che amo molto Sofia Coppola ho trovato un film molto trattenuto, molto intelligente, molto raffinato e molto molto simile nelle tematiche ai film che aveva fatto in precedenza, e amando io molto lei ho amato molto anche questo film. Bene, vado avanti? È certo. Vado avanti, diciamo, al quarto posto ho messo un film invece che era il quarto, terzo e secondo sono film dell'anno scorso praticamente, appunto, che sono arrivati però in sala quest'anno, e il primo è Personal Shopper di Olivia Sayas, che era a Cannes 2016, che però è arrivato quest'anno nelle sale, che è un oggetto misteriosissimo che io ho amato follemente, è una strana storia di fantasmi che è anche però una specie di ritratto di personaggio femminile molto molto interessante. Assayas gioca con i generi, gioca con reminiscenze, gioca con i materiali, mette dentro dei falsi documentari, fa un uso della tecnologia secondo me molto sofisticato e molto molto intelligente, inserendolo nella trama in una maniera appunto piuttosto sorprendente. C'è una Kristen Stewart secondo me sempre più straordinaria, soprattutto quando lavora con Assayas, perché di Sis Maria si era parlato molto moltissimo dell'interpretazione di Juliette Binoche, mentre trovavo già lì Kristen Stewart come il corpo perfetto per questo cinema strano e mutante come quello di Assayas, e ho trovato anche in questo caso un film assolutamente sorprendente e fuori dagli schemi, ecco. Soprattutto Assayas è un regista che secondo me continua a stupire parecchio. Bene, vado da solo. Un altro film che ho messo al terzo posto quest'anno è un film anche questo da Cannes, ma da una sezione parallela, mi sembra fosse alla Kenzen del realizzatore dell'anno scorso, il 2016, che però è uscito a gennaio, ed è un film che mi ha straziato il cuore. Qua è un discorso proprio sentimentale, Dopo l'amore di Joaquin Dafoss, in originale aveva un titolo bellissimo che è L'economie du couple, l'economia della coppia, ed è un film su una separazione, su una coppia che si sfascia e su quanto, ahimè, le cose pratiche poi diventino il terreno di battaglia all'interno di un confronto che riguarda il passato, che riguarda l'amore finito, che riguarda la gestione dei figli, e come tutto questo si trasfiguri nei discorsi più pratici. Il film fa tutto un ragionamento sulla valorizzazione dei restauri, sulla valorizzazione dei lavori fatti in casa, su di chi è l'appartamento, su quanto si deve vedere le bambine. Insomma, è un film che praticamente fa una specie di vivisezione della fine di un rapporto, trattandolo, come spesso accade, appunto seguendo i litigi più pratici per poi scoperchiare quello che sono veramente le fragilità, il senso di fallimento, le delusioni di un amore che finisce. C'è in quel film la scena per me più bella dell'anno, che è un momento, una specie di piccola bolla di pace musicale di questa coppia che balla con queste due gemelline al suono di una canzone anche un po' coatta, che è l'ultimo momento di grande tenerezza all'interno di una tragedia sentimentale che sta ormai compiendosi. E, insomma, io trovo il Phil de la Fosse, che è un regista che in Italia è arrivato pochissimo e che secondo me è uno dei registi più interessanti del cinema europeo, abbastanza giovane perché è un quarantenne, sia veramente una delle grandi sorprese dell'anno scorso e di quest'anno come uscita in sala. Ok. Dell'anno scorso come uscita in sala di quest'anno è il mio secondo film, che è Jackie di Pablo Larraín. Larraín è un altro, ecco, forse Larraín lo considero della sua generazione forse il regista più importante che c'è nel panorama mondiale. È un autore che dal Cile è riuscito a fare un salto in America raccontando una storia americana come quella di Jacqueline Kennedy, mantenendo una consapevolezza dei propri mezzi, una personalità di racconto, una capacità di esprimere in maniera assolutamente riconoscibile il suo senso dei personaggi calati all'interno della storia, quella con la S maiuscola, e delle sue capacità di frizione, di raccontare queste frizioni che appunto tra i singoli e il pubblico siano così forti. Lo aveva fatto chiaramente in Neruda, che era una storia chiaramente a lui più vicina in quanto era una storia di una delle icone principali del suo paese. Lo ha fatto secondo me in maniera strabiliante con Jackie, che è un ritratto femminile a cui si deve anche forse l'interpretazione più impressionante dell'anno, che è quella di Natalie Portman nella parte appunto di Jackie Kennedy. La metto alla pari di quella di Isabelle Huppert in El di Paul Verhoeven, che è rimasto fuori da questi cinque ma ci poteva entrare tranquillamente, e racconta appunto come sia un personaggio privato, come si debba presentare nel momento in cui la storia gli cozza contro. E c'è il racconto di queste interviste da preparare alla Casa Bianca tra Jackie Kennedy e appunto i giornalisti subito dopo l'omicidio di Kennedy. Qual è la liturgia del potere che si nasconde dietro l'occhio di noi spettatori, raccontato con un'intelligenza e con una lucidità davvero, davvero sorprendente. Manca il primo. Il primo è un'altra scelta proprio di cuore, sarà una scelta, è stata una scelta di cuore anche per la freschezza della visione, perché è un film appena uscito e che mi ha letteralmente stravolto, che è l'ultimo film di Woody Allen, che è Wonder Wheel, La Rota delle Meraviglie, che è in sala adesso. E quindi questo è anche un consiglio di visione a qualcuno che ancora non l'abbia visto. Per fortuna Woody Allen in Italia ancora un suo zoccolo duro di estimatori e di fedeli spettatori. Io sono molto, come dire, molto cauto quando si comincia a accusare Woody Allen di ripetizione, di senilità, di ormai, come dire, tornare sempre sugli stessi temi. È vero, torna sempre su temi piuttosto a lui congeniali, ma del resto questo è, fa parte della poetica di un autore che ha 82 anni, non vedo perché dovrebbe cambiare per sorprendere il pubblico. Però continua a fare appunto dei film secondo me sorprendenti. Secondo me gli ultimi 5 film di Woody Allen sono tutti molto belli in maniera diversa, e questo però lo è in maniera particolare. È una specie di rivisitazione del melodramma anni 50, che parte da Sirk, che passa da Tennessee Williams e Arthur Miller, che ha dei ricordi sia del cinema che soprattutto del teatro di quel periodo, che gioca sicuramente con il senso della memoria che Woody Allen ha sempre avuto. Coney Island è un luogo che ritornava ad esempio nei ricordi di Ioanni, del protagonista bambino. C'è un racconto appunto quasi fermato nel tempo, come in una fotografia dai mille colori. Qua c'è un uso della fotografia di Storaro che è presentissima e marcatissima, ma con un grande senso narrativo e psicologico della fotografia. E c'è un ennesimo amarissimo racconto di quanto, ahimè, la felicità sia una chimera difficile da raggiungere, quanto poi la felicità personale di solito calpesti e annulli le felicità altrui. Il film riesce a essere un racconto da camera, un dramma teatrale, con delle aperture, con degli esterni straordinari. Ci mette dentro anche dal punto di vista visivo e d'impasto le illustrazioni di quello che era la cultura anche popolare dell'America anni 50, da Ron Rockwell in giù. Insomma, secondo me è un film intelligentissimo, coltissimo, emotivamente abbastanza straziante, con una incredibile interpretazione anche qui di Kate Winslet, ma anche tutti gli altri interpreti sono perfettamente in tono. E insomma, a me sembra che Woody Allen a 80 anni continui a fare variazioni sul tema, sui temi che gli sono appunto a lui più cari: la colpa, l'infelicità, la dannazione, l'amore destinato a non risolvere i problemi, anzi a essere ogni tanto un motore che gira su se stesso come la ruota del Luna Park di Coney Island, con una, appunto, con una lucidità e una forza narrativa davvero invidiabile. Quindi l'avrò visto, l'ho visto da poco, mi aspettavo, come io mi aspetto sempre, Woody Allen, un film bello e interessante, ma questa volta diciamo è andato anche oltre le mie più rosee aspettative. Bene. Insomma, devo dire solo una cosa però, sì, perché mi aspetto, oggi pomeriggio vado a vedere Coco, che è il nuovo film della Pixar e che quindi non ho visto, ma conoscendomi sarebbe facilmente entrato in cinquina. Però, e allora invece, ricapitolando, L'inganno, Personal Shopper, Dopo l'amore, Jackie dopo e l'amore. La ruota delle meraviglie. Perfetto. Dal quinto al primo. Benissimo. Una considerazione sugli italiani? La considerazione sugli italiani è stato un anno ricco e secondo me piuttosto interessante, se non proprio buono per gli italiani, nel senso che aveva una presenza molto ricca, se non in concorso ma nelle sezioni collaterali a Cannes. Aveva una presenza molto ricca, come lo è spesso, ma qualitativamente molto differente a Venezia, chiaramente. Secondo me c'è comunque una vitalità di fondo piuttosto buona, e c'è, secondo me, ci sono stati parecchi film italiani molto interessanti, da Ciambra, che era candidato all'Oscar, a tutti i film che erano alla Ken Sandy Khan. Quest'anno io ho una passione, visto che così ne cito uno, per Nico 1988 di Susanna Nicchiarelli, che ha vinto Orizzonti a Venezia e che secondo me è un film davvero sorprendente, proprio perché anche questo, e non nella maniera in cui siamo abituati a dirlo, con le strane nuove commedie che vanno in una nuova direzione, ma un modo di fare cinema italiano diverso, che abbia veramente un respiro europeo, internazionale, ma senza dimenticare anche una volontà di racconto originale, che secondo me Susanna Nicchiarelli in questo caso ha dimostrato. È sì, la ricostruzione della vita di Nico, lontana dai successi di Velvet Underground, raccontata anche questo come un dramma da camera, con una capacità però di filmare la musica e di trasmettere i personaggi, anche grazie a un'altra interpretazione strepitosa, che è quella di Trine Dirolm, dico solo attrici oggi e nessun attore, che quindi insomma secondo me quello è un film che ha sorpreso, infatti poi all'estero è stato venduto in molti paesi, e quindi, cioè, secondo me c'è un cinema italiano che non necessariamente nel rinnovamento della commedia, che poi, che piaccia o non piaccia, è sano anche quello, ma anche il cinema d'autore italiano sta cercando di trovare delle strade diverse e curiose. Quindi appunto Carpignano l'abbiamo detto, secondo me c'era Cuori Puri, comunque anche quindi insomma del cinema legato al territorio, secondo me c'è un buon movimento, che se non sempre i risultati sono buoni, però comunque c'è un fermento che mi lascia ben sperare, devo dire, voglio essere ottimista. Bene, in chiusura, per chi fosse interessato, dove ti si può leggere o ascoltare? Ascoltare quando mi chiamate voi, leggere scrivo tendenzialmente su Cineforum, sia la rivista che il sito, e su Duels, che è il sito che nasce dalla vecchia rivista Duel, a cui collaboravo, e che adesso è un sito ricco e bello che si occupa di cinema, ma non soltanto, anche di teatro, di letteratura e varie cose. Bene, allora Fede, un abbraccio, buon anno e alla prossima. Anche a voi, grazie, auguri a tutti, a presto. Ciao. Questo Federico Pedroni. Ritroviamo Sergio Sozzo, ciao caro. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, sono sempre, sempre contento anche a fine anno di essere visionari. Così ci facciamo anche gli auguri. Senti Sergio, allora, come ho fatto con gli altri, anche a te chiedo un bilancio di quest'annata cinematografica. Ma guarda, è un'annata interessante soprattutto per quello che forse non si è visto al cinema. Immagino che già i miei colleghi abbiano ampiamente parlato di serialità o di magari crisi del sistema festivaliero. Chiaramente è un'annata di grande mutazione, un periodo di grande mutazione. È probabile che alcune cose, alcuni titoli più piccoli siano stati in grado di coglierla, forse più della grande autorialità, ecco. Ovviamente la cosa più cruciale, la cosa più importante non è passata al cinema, che per forza di cose Twin Peaks, no? Però al di là di questo mostro con cui dovremo fare i conti chiaramente per i prossimi 10-15 anni, mi sembra che l'industria, se pensa a un titolo come Blade Runner 2049, che è un titolo molto astratto, abbia cercato di cogliere le mutazioni soprattutto tecnologiche di rapporto nostro di percezione con le immagini, però non cogliendo magari più un pubblico, ecco. Cioè, mi sembra che ci sia una grande domanda su chi è il pubblico prettamente cinematografico dell'oggi, e su questo bisogna imbastire magari la riflessione su quello che verrà, su quello che vedremo, già a partire magari da Berlino, che mi sembra imminente, ecco. Okay. Senti, allora, i tuoi cinque? I miei cinque, ecco, due dei miei cinque vengono dalla Berlino dell'anno scorso, devo dire. Uno era il film che, insomma, in tanti speravamo vincesse proprio l'Orso d'Oro, che è L'altro lato della speranza, Aki Kaurismäki, The Other Side of Hope, che era, insomma, per me era sicuramente il film più bello visto a Berlino, dove c'era anche I'm Not Your Negro di Raoul Peck, che però era già passato da altre parti e che mi sembra un altro titolo cruciale. Ecco, questi due sicuramente da Berlino, insieme a due italiani visti invece a Cannes ma non in concorso, entrambi in maniera quasi inspiegabile, che sono A Ciambra di Jonas Carpignano e Sicilian Ghost Story di Grassadoni e Piazza, ingiustamente bistrattato da una parte dei miei colleghi in Italia. E a questi due, appunto, erano a Cannes. A questi quattro ne aggiungo uno più strano, diciamo, ma più personale: un vecchio maestro, Walter Hill, tornato a ruggire, anche se anche qui non in tanti ce ne siamo accorti qui in Italia. Il film è Nemesi o Assignment o Tomboy, insomma, ha cambiato 47.000 titoli. È un film molto interessante, seppur ovviamente un film prettamente di genere, quello di Walter Hill, ma mi sembra tenere insieme questa cinquina, che è una cinquina su come ragionare su tematiche importanti dal punto di vista sociale: il diverso, le questioni razziali, le questioni delle migrazioni e tutto il resto, ma sempre attraverso le armi di un cinema ancorato alla potenza del mezzo. Se penso ad A Ciambra, è un film anche di una grande potenza visiva. Stessa cosa l'umorismo bislacco di Kaurismäki, però in un film urgentissimo sulle questioni dei flussi migratori. Allo stesso modo Nemesi ragiona di gender, però senza rinunciare alle sparatorie e, come dire, ai duelli all'arma bianca, ecco. Senti, qual era l'altro titolo berlinese insieme a Kaurismäki che hai messo nella cinquina, che sto segnando tutto? È il film di Raoul Peck, I'm Not Your Negro, è un documentario. I'm Not Your Negro, sì. Insomma, okay. È un film, anche quello non passato tantissimo, però poi ha avuto una lunga vita perché Feltrinelli Rialsino l'ha fatto uscire velocemente in DVD insieme al libro di Baldwin. Raoul Peck è un autore cruciale, di cui in Italia è ancora inedito Le Jeune Karl Marx, il suo biopic rosselliniano sul giovane Carlo Marx, che è un altro film, devo dire, imperdibile, che spero di poter vedere invece nel 2018, in modo da poterlo votare poi quando ci risentiamo l'anno prossimo. Ecco. Sì, credo che sia con Wanted Cinema. Ecco, sì, grande, sì. Questa è una bella notizia, insomma, è già un proposito andarlo a vedere quando sarà, ecco, nelle sale. Bene. Allora, Sergio, in chiusura, chi è interessato dove ti può leggere o ascoltare? Certo, no, io sono ovviamente prettamente su sentieriselvaggi.it, che è una testata online che dirigo, ma come i tuoi ascoltatori sanno bene, facciamo anche degli eventi a ingresso gratuito nella sede della nostra scuola di cinema in via Carlo Botta 19 a Roma, quindi veniteci a trovare da dopo le feste oppure leggeteci su Sentieri Selvaggi. Un abbraccio e buon anno. Buon anno a tutti, grazie. Ciao. E questo era Sergio Sozzo, questo è lo speciale Visionari sulle cinquine, i cinque film preferiti dell'anno tra quelli usciti in sala, la prima di due puntate, la prossima sarà giovedì 4 gennaio e continuiamo. Pedro Armocida, ben ritrovato. Buon pomeriggio a tutti. Ciao, caro. Però ti sento bene. Allora, anche a te chiedo un bilancio di quest'annata cinematografica, Pedro. Guarda, da un punto di vista del pubblico e dei biglietti strappati, purtroppo c'è un aspetto comunque fondamentale che diciamo a noi critici deve interessare, perché il cinema si fonda anche sul suo pubblico e quindi i dati di quest'anno sono abbastanza problematici, quindi tutti quanti ci chiediamo che sta succedendo, il pubblico si disaffeziona, mancano le storie. Naturalmente questi sono dati che vanno visti anche un po' sul lungo periodo, perché ogni anno fa un po' storia a sé, però certamente c'è un piccolo campanello di allarme che qualcuno spera che con la nuova legge sul cinema di Franceschini, che sta in questo momento per iniziare, no, con i decreti attuativi tutta la parte organizzativa formale e di attuazione, si spera molto che possa dare un impulso anche, soprattutto anche alla ricerca del nuovo pubblico e all'ampliamento del pubblico al cinema, che purtroppo è uno dei più gravi problemi italiani, perché il pubblico da 10, 15, 20 anni nella sua totalità è sempre lo stesso come numero di spettatori. Però sì, ecco, questo è il dato, diciamo, di mercato che va tenuto in conto. Il lato poi invece di qualitativo anche artistico, secondo me quest'anno è molto alto, e ogni volta che tu mi chiami ti ringrazio per coinvolgermi in questa cinquina, ho gravi problemi a sintetizzare, perché c'è una lista lunghissima, anche quando faccio i 10 film per Film TV per le settimane con cui collaboro ho problemi, figuriamoci 5. Però ecco, credo che anche altri miei colleghi l'abbiamo già citato come fenomeno extra cinematografico, ma cinema to cure, chiaramente Twin Peaks, David Lynch quest'anno è una stella, diciamo, una stella polare quasi raggiungibile rispetto a tutto il resto per inventiva, modernità, contemporaneità. Twin Peaks ha tutto. E per le serie citerei anche The Night Of, la serie con John Turturro, che secondo me queste due serie televisive sono le migliori dell'anno. Ok. Per quanto invece riguarda i titoli in sala? Per quanto riguarda i titoli in sala, partirei da uno dei film più sorprendenti dell'anno, che è L di Paul Verhoeven. Sorprendente, a me sorprendono sempre questi grandi vecchi, anche se a 79 anni non è vecchissimo oramai, però comunque mi piace. Adesso scusami che faccio delle connessioni, adesso in sala c'è un film come Bel Dorman, una bella addormentata di Ado Arrieta, anche lui 75enne, rifà il cinema La Bella Addormentata, ma in una chiave molto moderna, molto molto molto avanti. Ecco, anche Paul Verhoeven ci regala un film più originale dell'anno, provocatorio, sorprendente, commedia, noir erotico e horror, però ci mostra come le relazioni fra gli individui siano sempre prive di certezze e di rassicurazione. Lui va oltre il politicamente scorretto, su chi non si salva nessuno, uomini e donne, e si finisce in un cimitero, non a caso. E guarda, per dirti, sei il sesto ospite di quest'oggi e ci sono stati due voti e una menzione per Elle, per cui ecco. E parlando di coppie, un altro film che vuole raccontare una coppia più che tutto il resto di cui adesso vedremo è Allied, un'ombra nascosta di Robert Zemeckis. Anche lì c'è tutto un impianto narrativo che si rifà un po' anche citazioni a Hitchcock, il modello di Casablanca dove il film è ambientato, però anche questo film poi si sofferma praticamente e vuole raccontare una storia tra una storia di una coppia, che con una delle scene secondo me più commoventi degli ultimi anni, che qualcuno invece ha preso in maniera di umorismo involontario, che non è quella scena appunto di sesso tra Brad Pitt e Maria Cotillard nella Tempesta di Sabbia. Ci sono alcune scene in questo film che sono veramente sorprendenti, anche quando lui atterra all'inizio con, sì, con il paracadute, sembra che atterra, che non atterra, atterra, non atterra, poi atterra. E ecco, anche questo un cinema che si sembrerebbe una riflessione sul cinema classico, che assolutamente è, ma è anche questo secondo me molto sorprendente anche nella come destruttura la macchina cinema. E a proposito di film di guerra, cito tra i cinque un film che non è stato, non dico, no, apprezzato, forse sì, non è stato visto, perché io un giorno per caso mi era sfuggito questo titolo, che è Bill Lynn, un giorno d'eroe di Ang Lee, recuperato un pomeriggio al Cinema Fiamma di Roma, che purtroppo oramai sarà chiuso per sempre, e non avevo capito neanche che era di Ang Lee, una mia mancanza cinecritica, e siccome era in originale l'ho visto e sono rimasto veramente folgorato da questo film, appunto, che ha avuto poche visioni. Purtroppo il film è stato girato in una tecnica particolare, sia in 3D che in 120 fotogrammi al secondo, e non l'abbiamo potuto vedere in questo modo. Però un film tutto che racconta di un reduce dalla guerra in Iraq, a cui è morto un compagno, e siccome è un eroe vedremo una sua giornata in cui viene portato da una parte all'altra fino alla partita di football americano, in cui il giorno del ringraziamento loro vengono portati come appunto degli eroi, ma naturalmente il film è quasi tutto in soggettivo a lui che guarda gli altri che lo applaudono, che lo portano in trionfo, ma naturalmente è un film assolutamente terribile sull'orrore della guerra, ma anche l'orrore di una certa America, che non è che sia l'America, di un certo modo di attuare delle grandi nazioni. C'è un film completamente sull'orrore vero dell'America di oggi. Sì, e sempre rimaniamo sempre in America, poi finiamo in Italia con un altro film che lavora sul cinema classico più di tutti e su uno dei generi fondanti del cinema americano, che è La La Land, quindi il musical di Damien Chazelle. Anche questo, una storia d'amore che non svederemo niente perché oramai si è scritto, si è detto tanto, è una storia d'amore non a lieto fine, che è appunto un po' anche questa è una distrutturazione dell'happy end classico hollywoodiano, perché con la coppia che si disgrega anche un po' la macchina cinema come l'abbiamo conosciuta. Si è tanto detto anche degli attori che non sono Fred Astaire e Ginger Rogers, ma non lo sono, perché appunto quell'America lì non esiste più, non sono quello che non possono essere. In questo senso il film è molto assolutamente onesto e lodevole. E come ultimo titolo, ma come ti dicevo te ne potevo dare altri 5-10, c'è un film italiano. Quest'anno secondo me c'erano parecchi film italiani interessanti, cito così proprio velocemente Sole con l'amore di Vicari, Unito 1988 di Chiarelli e Amore e Maravita dei fratelli Manetti, però quello che proprio alla visione mi è rimasto subito nel cuore, non capivo perché, nel senso mi ha emozionato in una maniera particolare, ma non è che l'emozione è una categoria critica, però comunque mi ha proprio fregato, è Dove non ho mai abitato di Paolo Franchi, un film diverso da sia da quel film che ho citato adesso, ma chiaramente ho portato il cinema italiano perché è un film che ci mostra un mondo di un ceto alto borghese che non siamo più abituati a vedere al cinema, o lo vediamo in una maniera un po' troppo stereotipata. Invece Paolo Franchi, a sorpresa, dopo alcune delusioni di ultimi film accolti male anche in alcuni festival, è stata una cosa per lui anche molto scottante, come sia un po', come dire, ha fatto un film in cui si è riconciliato. Anche qui torna l'idea di un cinema classico che continua a nominare questa idea di cinema classico, che definirla poi è un po' complicata perché naturalmente non è univoca, però si rifà anche a un certo tipo di melodramma. È la commissione un po' di tutto quello che lui è riuscito a fare grazie alle musiche di Pino Donaggio, grazie alla scrittura di sceneggiatrici, ai dialoghi che lui ha scritto a parte rispetto alla sceneggiatura, su cui si è molto concentrato, e ai due attori protagonisti che sono Emanuele De Rossi e Fabrizio Gifuni. È riuscito appunto in un piccolo miracolo, un film italiano che racconta senza troppe parole, con molte immagini, con una cura della regia assolutamente commovente. Anche qui una storia d'amore, non ha lieto fine, ma la vita è anche questo. Allora, devo dire che La La Land sei il terzo su sei ospiti a metterlo nella cinquina, e ti chiedo in chiusura, Pedro, per chi volesse seguire il tuo lavoro, dove ti si può leggere o ascoltare? Allora, leggere su Film.tv, come dicevo prima, sì. Settimanale di cinema, Chuck, io beh, collaboro anche al Giornale di Milano, e poi, come sai, dirigo un festival, certo, la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro. A giugno c'è la 54esima edizione, faccio un po' di pubblicità perché anche quello è un modo di fare critica. Quest'anno ci sono 4 film che sono usciti in sala su cui non avevamo puntato, e sono contento che si sono visti. Bene. E si vedranno. Uno è The First Shot, in particolare a marzo uscirà il film di Francioni e di Yang Cheng, ma magari avremo modo di parlarne, chissà. Certo, certo. Pedro, auguri e a risentirci presto. Grazie Federico, anche a voi. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Pedro Armocida, e proseguiamo. Anna Maria Pasetti, ben ritrovata. Ben ritrovato Federico, ben ritrovato tutti gli ascoltatori, e buone feste, no? Si può dire? Eh sì. Beh, anche perché ci saluteremo con gli auguri di buon anno sicuramente. Ecco, allora, quest'anno sì. Cinematografico, che ne dici? Ma insomma, a me sembra che gli anni cinematografici ormai si assomiglino un po' tutti nella loro imprevedibilità, nell'essere più o meno dentro un sistema, e anche quando cercano di uscire, no, da certe regole, leggi di mercato, macroscopiche, diventano sistema un po' off, un po' fuori, no? Fanno sistema lo stesso, ecco, non so come spiegarti. C'è anche ciò che vuole essere cinema indipendente, alla fine deve rientrare in alcune logiche, altrimenti resta invisibile. Quando un film non è visibile, purtroppo è come se non esistesse. E detto questo, la qualità va un po' a caso, cioè ci sono le annate buone, le annate non meno buone, un po' come il vino, se piove non piove, se c'è l'ispirazione, se c'è quella congiuntura astrale tale per cui l'autore tira fuori dal, no, con la bacchetta magica quel suo capolavoro, ed è bello che sia così, a fronte di altri autori che invece fanno insomma, non riescono a dare il meglio di sé. Io quest'anno, forse direi del 2017, leggermente meno buono del 2016, Ma nella mia cinquina ci sono un paio di cose che mi piacerebbe così commentare anche come elemento di novità, sì, no? E lo dico subito, per me l'espressione cinematografica più bella del 2017 risponde a una serie televisiva. E tu dici, e forse qualcun altro l'ha già detto. Beh, un paio di volte è volato fuori Twin Peaks. Esatto, anche per me. Che non è una serie TV, ma a detta di Lynch è un film lungo 8 ore, adesso sono 16 puntate, ecco, cioè sono 16 parti di uno stesso film. Alcune di queste parti sono degli autentici capolavori e nell'insieme fanno un lavoro straordinario. Quindi se per me, avendolo visto poi le prime tre parti a Cannes sul grande schermo, quindi con il pedigree, diciamo così, no, del cinema, perché Lynch fa comunque cinema anche quando lo fa per il piccolo schermo, per me questo è un'espressione squisitamente cinematografica, okay, per il 2017. Non so se lo puoi accettare, se l'hai già accettato da altri. Beh, no, non posso, questo non lo posso fare. Allora mettilo come menzione. Però sì, di questo, che però tra le varie riviste specializzate di tutto il mondo, critici o non critici, è rientrato Twin Peaks. Sì, sì, per cui diciamo che non è che faccio io un'eccezione. Insomma, il pubblico normale è costretto a vederlo su piccolo schermo. Beh, sì, oppure si prende un proiettore e se lo vede sul grande schermo. Cioè, okay. E questa è anche una provocazione. Voglio dire, forse il miglior cinema oggi lo si vede nelle serie televisive. Mm-hmm. I grandi autori si stanno cimentando in scritture e regie che ti lasciano stupefatti, soprattutto nella scrittura. Io mi diverto molto di più con le serie TV che purtroppo, devo dire, cioè purtroppo, sinceramente, e raggiungono forse anche un maggior numero di spettatori, anche sicuramente. Sì, è sì, ovvio, sì, no, che sia così. Certo. E quindi, cioè, per esempio, dell'anno scorso, io ricordo che una delle cose più belle in assoluto che ho visto è stato The Nick di Soderbergh. L'ultima puntata della seconda stagione è forse uno dei film più belli che ho visto proprio in assoluto. E vabbè, e i grandi festival ormai hanno dato spazio alle serie TV, tienine conto. Okay. Passiamo allora magari a parlare anche di, dai, io lo metto, però c'è, vabbè, pure c'è anche un altro film che puoi mettere come ti pare, insomma, però non trascurare questo elemento, sì, perché sì, saresti, sì, fuori dai, sì, tempi, sì, insomma, ecco. Ok. Allora, per me uno dei grandi film, certamente da tutti i punti di vista, è Dunkirk di Christopher Nolan. Ok. Come Emanuela Martini. Ah, ecco. Non ho potuto vederlo al meglio delle sue delle sue potenzialità, perché era stato concepito, è stato girato con una pellicola per una proiezione di 70 mm e non l'ho visto purtroppo perché a Roma non esiste, però ecco, grandissimo, grandissimo film. Poi all'inizio dell'anno è stato distribuito uno dei grandi film di cui si è parlato più che altro nello scorso anno. In Italia è arrivato a gennaio, che è La La Land, per me un grandissimo musical che aveva aperto Venezia. Sei la quarta su sette, insomma. Ecco, quindi La La Land. Poi non sono in ordine di sì, qualità, sì, sì, certo, in certo. Ordine così. Ordine sparso. Ordine sparso, sì. Poi un grandissimo, e l'ennesima conferma di un autore che amo particolarmente, che è russo, Loveless, sì, insieme a Fabio Ferzetti. Ecco, un film strepitoso che secondo me è stato il miglior film di Cannes, a Cannes 2017, uscito neanche un mese fa, nelle sale di Andrei Zianikstev. E poi voglio mettere ad onore dell'Italia, anche se io non sono nazionalista, non me ne frega niente, però uno dei grandi, secondo me, degli emergenti grandi talenti italiani è Jonas Carpignano a Ciambra, è un meraviglioso esempio di grande regia cinematografica. A Ciambra anche Sergio Sozzo. Ecco, e a Ciambra era, vabbè, lo ricordiamo, il candidato italiano per gli Oscar. In realtà John Scarpignano è italo-americano, ma è bello questa contaminazione in assoluto, e mi dispiace che non rientra nessun premio, diciamo, di quelli blasonati, però a noi non interessa. Comunque ha avuto dei riconoscimenti alla Kenzen. Poi mettiamo una menzione speciale, perché appunto c'è Twin Peaks, che non so se tu dove mettere, non mettere, e che io ho tenuto un po' da parte. Cioè, forse ho due menzioni, diciamo così. Una è diciamo la rivisitazione di Blade Runner ad opera di Villeneuve, Blade Runner 2049, che è un film anche forse, ecco, visivamente strepitoso. Ma è una citazione o lo metti tra i cinque? Ma vedi, io voglio mettere Twin Peaks nella mia cinquina, però okay. Se tu vuoi mettere, la vuoi mettere fuori? No, io devi essere allora tu a scegliere. No, ma io scelgo Twin Peaks, allora do delle menzioni. Una menzione è Blade Runner, okay. E l'altra menzione è un piccolissimo, invisibile film francese, che è Une Vie di Brisé, Stéphane Brisé, che era a Venezia 2016, che è uscito però nel 2017. Una vita, era in italiano, un film francese molto molto interessante, ecco. Okay. Questi sono i miei, diciamo che c'è di mezzo, sì, c'è parecchi, so, molto Stati Uniti, un russo, un italo italiano, diciamo così, ecco. Okay. E un francese, così, francese. Per gradire tra le citazioni, bene, ecco. Bene. E questo più o meno è la mia annata. Sono certa che ci saranno dei grandi film nel 2018, perché li ho già visti, nel senso che li abbiamo visti noi che andiamo ai festival, e quindi sappiamo che cosa uscirà. Sì. E in parte sì, qualcosa dai possiamo prevedere di buono. Okay. Poi adesso è la stagione fertile fino almeno a marzo, insomma, nelle sale qualcosa di interessante si trova. Ok. Allora, in chiusura ti chiedo, come agli altri, per chi ci sta ascoltando, dove ti si può leggere o ascoltare? Allora, normalmente sul Fatto Quotidiano, sia online che sulla carta, con regolarità sui cartelloni, anche fuori dai cartelloni, poi su Vivi il Cinema, se si va nelle sale d'esse, c'è questa rivista che viene distribuita gratuitamente. E poi sì, ecco, mi si può anche ascoltare quando faccio video recensioni su un sito che si chiama saledellacomunità.it, o leggere, anche lì sono cartelloni settimanali e c'è anche la mia firma. Benissimo, ecco. Allora Nina, auguri e a presto. A te e a tutti gli spettatori, buon anno, buon cinema e bellissimi sogni. Un abbraccio. Ciao a te. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Anna Maria Pasetti, ci fermiamo per questa settimana a sette ospiti per la prima delle due puntate dedicate a un bilancio cinematografico dell'anno e ai cinque film preferiti tra quelli usciti in sala da parte di amici e colleghi critici cinematografici e non solo. A questo punto ci salutiamo, ci diamo appuntamento a giovedì 4 gennaio per la seconda parte. Dovremmo avere altrettanti, anzi più ospiti rispetto ad oggi, e quindi sarà un gran finale, anche un'occasione per lo scambio degli auguri per il nuovo anno. Baci, abbracci, buon proseguimento. Alle 16 c'è Attica Blues, buon anno e a giovedì prossimo.